Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ci ritroviamo con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ritroviamo e risalutiamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Parlavamo di saldi, parlavamo anche di vacanze, perché è ovviamente una spesa che può essere considerata superflua ed è una spesa che di questi tempi si tende a tagliare. Certamente, purtroppo in questa crisi le persone stanno cercando di tagliare non solo il superfluo, però è anche vero che molte persone, molte famiglie, in un momento di grandissima incertezza, o chi ha perso il lavoro, o chi lavoro non lo trova, o chi certamente vede questo periodo come con forte preoccupazione, sta tagliando anche le ferie. Non si parla quindi solamente di ridurle, ma proprio di tagliarle. E le persone in Italia che hanno dichiarato in questo senso di volerlo fare sono 7,8 milioni e certamente un dato molto importante, perché soprattutto in un momento in cui comunque si proviene da un anno molto difficile e anche in un momento in cui comunque le persone avrebbero bisogno di staccare un pochino, troviamo invece che sempre più persone decidono di rimanere a casa per cercare di continuare a mettere via un po' di soldini o di non spendere soldi che ormai non hanno più. Chi decide appunto di rimanere a casa, chi decide comunque di partire ma magari fa un viaggio più corto, sta via meno giorni, è questa la tendenza. Sì, noi addirittura avevamo fatto un'indagine un po' di tempo fa dove addirittura cercavamo anche le strategie che le famiglie adottano per risparmiare. Sappiamo che agli alberghi si cercano gli appartamenti, chi ha la seconda casa certamente sfrutta la seconda casa, ma molti cercano anche di fare il scambio della casa durante il periodo delle vacanze, che è un fenomeno americano, tipicamente americano, ma che anche in Italia sta cercando di prendere sempre più piede. C'è il fenomeno quello anche di poter fare il viaggio assieme come carpooling, dove molte persone mettono a disposizione la propria auto e si dividono le spese del viaggio. Poi si cercano anche di andare a trovare in questo periodo di crisi sempre più frequentemente i parenti e gli amici che magari hanno l'opportunità di vivere in certi luoghi e che magari durante l'anno si dimenticano, e in questo senso si cerca anche un pochino di trascorrere qualche giorno assieme. Per cui tante cose, tanti pendolari, ma soprattutto poco movimento e tante persone che sostanzialmente comunque hanno già anticipato che in vacanza quest'anno non ci andranno. E quelli che ci vanno, che scelte fanno? Cosa si può dire? Ancora estero, ma chi va all'estero evidentemente non ha particolari problemi. Sostanzialmente il 55% dei vacanzieri nostrani ha scelto di trascorrere la villeggiatura in località italiane, mentre i paesi europei sono una meta indicata dal 22% degli italiani. Poi solo un 11% preferisce località extra Unione Europea, normalmente questi sono poi i single o le coppie più che le famiglie. Il mare in tutte queste mete si conferma la destinazione privilegiata con quasi il 50% degli italiani, seguono la montagna il 12,6% e le città di interesse storico e artistico circa un 10%. Noi ricordiamo che il Veneto con Venezia e le sue province è certamente una delle mete anche più ambite in Italia e anche per gli stranieri, abbiamo delle bellissime spiagge e sicuramente molti hanno anche dichiarato che in questa crisi approfitteranno un po' per visitare le città in cui abitano o frequentare le nostre spiagge con il frigobar. Ecco, questa è una nota abbastanza carina, perché addirittura un paio di persone l'altro giorno sono venute là, dico, fa guarda, noi abitiamo vicino tra Treviso e tra Venezia, non abbiamo mai colto l'occasione di visitarle, quest'anno abbiamo 15 giorni di vacanza, abbiamo deciso di viverci un po' la città e scoprirla, cosa che durante l'anno in questi decenni non abbiamo mai fatto. Poi da dire che tra le voci che pesano di più sui bilanci delle famiglie c'è stato comunque il passaggio di ICI a IMU, che ha comportato un maggiore sborso per gli italiani, e un'imposizione fiscale sui carburanti che sicuramente anche questo incide molto sulle mete, perché oggi ricordiamo che i carburanti in Italia sono tra i più cari in Europa e questo sicuramente quando si tratta di fare il pieno dove fare una meta molto lunga tra benzina e autostrade comunque ha un peso molto importante sui portafogli delle famiglie. Tra l'altro è proprio notizia di questi giorni, insomma, dei consueti come dire, ad orologeria aumenti della benzina. Sì, ormai siamo abituati, lo denunciamo sempre come in certi periodi dell'anno, alla vigilia di importanti esodi o controesodi, come può essere il ritorno, immancabilmente le compagnie petrolifere adeguano sempre i cartelli all'insù. È un atteggiamento che noi abbiamo sempre denunciato, questa volta danno colpa all'Egitto, ma se non è l'Egitto è sempre qualcos'altro di diverso. Oltretutto ricordiamo che nel pacchetto che il governo ha varato, il famoso decreto del fare, è previsto anche un'ulteriore accisa sui carburanti per introitare qualche centinaio di milioni di euro che in questo momento dicono di non avere, e certamente pensare di fare 700-800 km bisogna mettere in conto anche i 200-300 euro di benzina, ma anche i 100-150 euro di autostrada tra andata e ritorno. Quindi sai, non c'è solo il costo dell'appartamento, del mangiare fuori, ma come detto c'è anche il costo del trasporto, che sta rivedendo un pochino quelle che erano delle mete che insomma le famiglie in questo periodo o le persone normalmente decidevano. In questo senso è molto più conveniente l'aereo e il treno, no? Soprattutto quando si viaggia magari in più di uno o in gruppo. Sostanzialmente sì, è vero. L'unica cosa è che anche qui bisogna sempre stare un po' attenti a quelli che sono due fenomeni. Uno è quello del low cost, che normalmente tende sempre più persone a voler aspettare fino all'ultimo momento a prenotare per poter dar modo di beneficiare di alcune offerte. Dall'altro però abbiamo anche visto che in passato, vedi Todo Mondo, vedi Viaggi del Ventaglio, prenotare troppo presto a volte purtroppo ci espone anche dei pericoli. Noi in questo periodo stiamo affrontando il fallimento della Winjet, ma in passato abbiamo affrontato quello della Maier, della Sky Europe, come appunto della Todo Mondo, dei Viaggi del Ventaglio, tutte cose che insomma negli ultimi 3 anni hanno impegnato molto l'associazione, ma soprattutto hanno coinvolto tantissime persone. Con questo allora ci fermiamo, ci sono molti spunti che riprenderemo anche nel corso delle prossime settimane insieme a voi dell'Adico. Grazie al presidente Carlo Garofolini e buon proseguimento di giornata. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.